cessé. Pensa mal, ok, autoproduzioni. Così, questo è palcolico. La red, out, FSH. Ok, se, se. Ok, pensa pure. Se sono ottimista, il bicchiere mezzo pieno. S'annebbia la vista dopo che me lo bevo. Con i ragazzi a tavola hai apparecchiato. Poi dammi cavatappi che stappo il moscato. Cosa è cresciuto, beve birra con l'imbuto. Devo recuperare il fatto che non fumo. E se c'è un bianco, porta pure quello. Glu glu glu. Ma che merda, hai portato il tavernello. Pietanze farcite pesanti come mattoni. Allento la cintura e poi stracci i pantaloni. Prendo il bianco, me lo bevo sfuso. Poi l'ambrusco perché altrimenti è geloso. Brindo tirando su tutto il gomito. E quando pisce la mia urina ha un alto tasso alcolico. Moltiplico pani, pesci e li cucino. E l'acqua giustamente la trasformo in vino. Fumo dei fornelli che fa la nebbia. Con i finelli è la nuova vendemmia. Vino rosso, anzi vino red. 90 è l'annata del vino che è in me. Fumo dei fornelli che fa la nebbia. Con i vinelli è la nuova vendemmia. Vino rosso, anzi vino red. 90 è l'annata del vino che è in me. Stando seduti a mangiare in canottiera, dalla cantina un'altra boccia di barbera. E mentre le mani alzano i calici, ci sporchiamo come camici dei medici. Seduto di fianco all'ora di pranzo, mangiamo magici piatti del mago Ronzo. Secondo, primo, no, non è importanza. Non si distingue la pietanza finché sta in pancia. I ragazzi del bar che non sanno di rap, ma che vengono a vedermi con in mano un tavernet. È una gem di bicchieri di bottiglie che dopo ti porta dentro al paese delle meraviglie. Le stoviglie non le lavo, ma ci dileggiamo per berci un altro amaro. E mentre si spegne la brace, tu balla su sta base e versa nel bicchiere il vino che ti piace. Fumo dei fornelli che fa la nebbia. Con i finelli è la nuova vendemmia. Vino rosso, anzi vino red. 90 è l'annata del vino che è in me. Fumo dei fornelli che fa la nebbia. Con i finelli è la nuova vendemmia. Vino rosso, anzi vino red. 90 è l'annata del vino che è in me.